Intuizioni e predizioni del curato d'Ars. Come il curato d'Ars vedeva e sapeva. Il 3 settembre 1856 giungeva ad Ars il conte di Tournai, che aveva il suo fratello a Correz, con una sua domestica di nome Maria affetta da sordità. Come molti uomini della sua generazione, non aveva fede, ma aveva sentito parlare del curato d'Ars come di un taumaturgo ed era venuto a visitarlo per chiedergli la guarigione della povera giovane. Era riuscito a farsi strada ed a penetrare nella chiesa, ma desiderava qualche cosa di più, cioè voleva trovarsi anche per un momento a faccia col servo di Dio. Assicuratosi che Maria sarebbe rimasta presso la porta, dopo di avere molto atteso poté avvicinare Don Vianney, che confessava nella sagrestia. «Signor curato, potreste guarire la mia domestica?» «Ah, Maria? Sì, la vedo nel coro. Scusate, signor curato, è in fondo alla chiesa.» Quale dei due aveva ragione? Il curato di campagna che diceva di vedere questa persona nel coro oppure il gentiluomo che affermava di saperla in fondo alla chiesa? Il conte di Tournai aveva sentito il curato chiamare la sua domestica per nome senza che alcuno glielo avesse detto, ma non poteva essere questo un puro caso? Maria è un nome tanto comune, ma il conte vuole rendersi più sicuro e discende alla pila dell'acqua santa, ma Maria non c'è più. Cerca fuori della chiesa fra i pellegrini che entrano ed escono, ma non gli riesce di scorgere la sua domestica. La cerca ancora in fondo alla chiesa, nel mezzo, ovunque, ma sempre invano. Allora si decide ad entrare nel coro dove appena mezz'ora prima Don Vianney diceva di averla vista e difatti la scopre là, dietro l'altar maggiore, in preghiera, vicino ad un confessionale, in un posto ove al curato d'Ars sarebbe stato impossibile vederla anche dalla soglia della sagrestia. L'incredulo, stupefatto, narrò la cosa e ne fece una chiara descrizione a Don Toccanier, che immediatamente scrisse il racconto coi suoi particolari. Quando la narrazione fu finita, il giovane missionario disse: «Ed ora, signor Conte, vorreste porre la vostra firma sotto questo racconto?» «Perché no? È la verità.» «E come spiegate voi questo fatto?» «Non ci capisco nulla. In ogni modo, il curato d'Ars non ha gli occhi come gli altri.» Abbiamo sentito un parrocchiano d'Ars un giorno dire: «Io credo che quest'uomo vedesse qualche cosa.» Don Vianney non arrivava alla cognizione di ciò che rimane nascosto alla generalità degli uomini attraverso supposizioni. Aiutato da una speciale grazia di Dio, egli vedeva. In soggetti eccezionalmente disposti si sono potuti constatare fenomeni di lucidità straordinaria, di doppia vista e di vista a distanza, e si tratta qui di fenomeni naturali, ai quali i dotti hanno dato spiegazioni convincenti. Ma non è il caso del curato d'Ars. In lui la spiegazione è data dalla chiaroveggenza soprannaturale, portata da quel dono che la teologia mistica chiama intuizione. Né si ingannò la folla che lo circondava ogni giorno quando in questo fatto straordinario e meraviglioso ha visto una manifestazione ultraterrena ed un segno di santità. Il padre Fevre, che fece molte visite ad Ars, riferisce: «Ho inteso dire che molte persone hanno consultato il curato d'Ars sulla loro vocazione, su processi, questioni di famiglia, malattie, decisioni da prendere ed hanno ricevuto una risposta piena di verità. A molti ha predetto avvenimenti che si sono avverati, a moltissimi ha svelato lo stato della coscienza e le disposizioni dell'anima, fino a causare in essi la più profonda sorpresa. Si era ormai formata nel pubblico la persuasione che egli godeva di doni soprannaturali e senza esitazione si prestava fede alle sue parole. Tale intuizione non era però in lui un dono continuo, né gli era dato di leggere in tutti i cuori come in libri aperti. Più spesso i suoi consigli erano il frutto della prudenza umana. Ma in molti casi, prima ancora che gli si indirizzasse la parola, manifestava al visitatore ciò che questi avrebbe voluto dirgli e ciò che avrebbe voluto nascondergli. Per questo motivo alcune persone venute per vederlo non osarono presentarsi a lui nel timore che scoprisse lo stato della loro anima. Si è cercato molte volte, da parte di coloro che più lo avvicinavano, di conoscere il segreto delle sue cognizioni soprannaturali, ma egli, per sviare un'inutile curiosità e più per la sua umiltà profonda, si accontentava di rispondere: «È un'idea che mi è venuta in testa», oppure «faccio come gli almanacchi, quando indovino, indovino». Si presentò un giorno al suo confessionale una giovane della Savoia e, prima che elle dicesse lo scopo della sua visita, Don Vianney le parlò della pietà delle sue sorelle e della sua attrattiva per la vita religiosa. Costei, uscita dalla chiesa, manifestò la sua meraviglia a Don Toccanier, il quale più tardi chiese al santo: «Come avete potuto rivelare tali cose senza conoscere questa persona?» «Ho fatto come Caifa», rispose il santo, «ho profetizzato senza saperlo». Ma quando un'improvvisa interrogazione lo sorprendeva, senza lasciargli il tempo di riprendersi, lasciava da parte la facezia e si tradiva senza accorgersene. Un giorno, dice ancora Don Toccanier, gli fece a bruciapelo questa domanda: «Signor curato, quando si ha la visione soprannaturale di una cosa, è senza dubbio come se si avesse un ricordo?» «Sì», rispose. «Un giorno, per esempio, ho detto ad una donna: siete dunque voi che avete lasciato vostro marito all'ospedale e vi rifiutate di raggiungerlo?» Ed ella mi rispose: «Come lo sapete? Io non ho parlato con alcuno». Io ero più sorpreso di lei. Credevo mi avesse già raccontato tutto. Qualche volta, mentre confessava, non solo dovette ammettere la sua chiaroveggenza straordinaria, ma ne diede anche la ragione. Si confessava un giorno una giovane domestica in servizio presso la famiglia Sinier di Ars. Stava per accusarsi di una colpa grave, ma tacque, pensando che l'avrebbe confessata più tardi. «Ma è questo?» domandò il santo, precisando quanto si voleva nascondere. «Non lo dite e l'avete fatto?» Stupita da tale improvvisa rivelazione, la penitente pensava al modo col quale il curato avesse potuto conoscere la sua colpa, ed egli, rispondendo a questo pensiero, che dalla fanciulla non era stato manifestato, aggiunse: «Me lo ha detto il vostro angelo custode». Più volte è sembrato che le intuizioni e predizioni del curato d'Ars fossero in urto con le più elementari regole della sapienza umana ed anche in contrasto con altri consigli venuti da persone ritenute assai prudenti. «Io credo che questo buon curato vaneggi», confidava a sua madre una giovane figliola di Lione, alla quale il curato d'Ars aveva predetto che sarebbe stata un giorno superiore di una casa di carità. Ma i fatti diedero ragione al santo. Insomma, si era obbligati a rendere omaggio alla sua sicurezza di vedute ed a confessare che vi era in lui nascosta la luce di Dio che lo illuminava. Intuizioni e predizioni. Per narrare tutti i fatti di intuizione attribuiti al curato d'Ars occorrerebbe un grosso volume. Noi ci accontenteremo di narrarne solo alcuni. La questione dell'avvenire è per tutti, ma specialmente per la gioventù, una preoccupazione e spesso un vero tormento. Per questo, quando si divulgò la voce che il curato d'Ars leggeva nei cuori e che davanti a lui si aprivano i veli che tengono occulto l'avvenire, Ars divenne la meta di tutte queste anime ansiose di conoscere i propri destini. La giovane Rosalia Berlieu di Saint-Étienne, che divenne in seguito assistente generale delle religiose mariste di Belley, col nome di madre Marie-Saint-Athanas, aveva una sorella minore, inclinata alla mondanità, che non sapeva cosa fare. Era entrata nel noviziato di Belley, ma ne era uscita, si disse, per mancanza di vocazione. Aveva allora deciso di passare al matrimonio, ma prima delle nozze pensò di domandare un consiglio al santo. «Volete sposarvi?» rispose il servo di Dio. «Credete di non trovare nel matrimonio altro che rose? Invece non troverete che spine». Partì da Ars delusa ed in occasione di un nuovo pellegrinaggio si presentò ancora al santo, che la lasciò con questa decisione inaspettata: «Entrate nel convento delle suore di Santa Chiara». «Ti ha detto anche che vi sarai ricevuta?» le chiedeva la madre al ritorno. Su questo il curato d'Ars non era stato interrogato e non aveva quindi avuto occasione di dire una parola. Si fece allora un terzo viaggio ad Ars ed il santo riaffermò il suo detto aggiungendo: «Sarete ricevuta presso le suore di Santa Chiara, sarete perseverante, morirete là ed andrete in cielo». Un giorno del 1855 la giovane Bossan, sorella dell'architetto di Fourvière, confidava un suo segreto al santo curato. «Padre mio, Ho intenzione di sposarmi presto e vi prego di benedirmi. Ma il santo, invece di benedirla, cominciò a piangere. Figlia mia, come sarete infelice! Ma che devo fare dunque, padre mio? Entrate subito nella visitazione. Non avete ancora 50 anni per fare la vostra corona. La giovane Bossan, divenuta Suor Maria Amata, morì maestra delle novizie nella visitazione di Fourvière il 13 agosto 1880 in età di 49 anni. Era nata l'8 luglio 1831. Edvige Moezin di Bourg sembrava avere particolare tendenza alla vita del chiostro, ma la sua famiglia le si opponeva irriducibilmente. In un inizio d'anno la povera giovane si recò ad Ars per confidare al santo la sua pena. «Consolatevi», rispose il servo di Dio, «fra un anno tutte le vostre pene saranno finite». Edvige Moezin moriva alla fine di quello stesso anno. Alla giovane Bernard di Farenz, che desiderava farsi religiosa, il curato confidò con tono sicuro: «No, voi non sarete suora, ma lo sarà vostra sorella che ora è sposata». Difatti, la sorella, rimasta vedova poco tempo dopo e disgustata del mondo, andò a prendere il velo presso le Orsoline di Villefranche, ove morì religiosa. La giovane Bernard, rimasta presso i parenti, si ammalò e chiese la visita del curato d'Ars, che si recò da lei nel mese di giugno. «Morirò presto?» gli chiese. «No, figlia mia, non per ora. Vivrete fino all'Assunzione». Morì infatti quel giorno. Don Augusto Faure, professore in un collegio di Saint-Étienne, desiderava farsi gesuita. «No, mio caro amico, restate dove siete», fu il consiglio. «La vita è così breve». Meno di un anno dopo, Don Faure contrasse la tisi mentre preparava i soldati alla Pasqua e moriva in età di 27 anni col Magnificat sulle labbra. A Saint-Étienne lo si venerava come un santo. Louisa Le Bon, lionese del quartiere di Fourvière, lasciava nel 1848 come allieva il pensionato delle dame benedettine di Pradin con l'idea di rientrarvi come religiosa, ma non aveva che 17 anni e la badessa si rifiutò di riceverla. Nel frattempo alcune amiche la condussero ad Ars ed ella, disperando di potersi avvicinare al santo in confessionale, scrisse le sue aspirazioni in una lettera di 4 pagine che riuscì a consegnare al curato quando ritornava alla canonica circa sul mezzogiorno. Verso sera la giovane Le Bon si trovava in chiesa nella folla compatta, mentre Don Vianney stava lasciando il confessionale per andare alla sagrestia. Ad un tratto si ferma e ritorna sui suoi passi. Fissa Louisa Le Bon col suo sguardo penetrante e l'invita a seguirlo. Un minuto dopo ella si trova inginocchiata, tremante, ai piedi dell'uomo di Dio. «Siete voi che mi avete scritto?» «Sì, padre mio». «Ebbene, state tranquilla, che entrerete nel vostro convento. Fra qualche giorno la madre vi scriverà che vi accetta». Non bisogna dimenticare che Louisa Le Bon aveva appena ricevuto dall'abbadessa una lettera recisamente contraria alla sua ammissione. 10 giorni dopo il colloquio avuto col santo, con felice sorpresa riceve un biglietto spedito dal convento di Pradin con queste semplici parole: «Mia cara Louisa, la perseveranza dei tuoi desideri mi obbliga a dirti un bel sì, vieni quando vuoi». Il 2 luglio 1849 tutto era conchiuso. Una giovane novizia, Suor Maria di Gesù, aveva pure visto ritardati i suoi voti per 3 anni, per l'età troppo giovane. Desolata, ottenne di fare il pellegrinaggio ad Ars per confessarsi al servo di Dio ed appena finì la confessione il santo esclamò: «Figlia mia, come siete fortunata!» «È vero, padre mio, sono fortunata malgrado tutto, ma prima di entrare in religione ho offeso molto il Signore. Figlia mia, restando nel mondo, avreste commesso tanti peccati e vi sareste anche dannata. Rimanete salda nella vostra vocazione». E prima che partisse la volle rivedere. «La vostra anima è bianca, molto bianca, ed ora andate a fare la vostra professione». «Padre mio, voi sapete che sono troppo giovane». «Tutto è pronto, figlia mia, anche la vostra croce. Andate». Quando Suor Maria di Gesù varcò la soglia dell'ospizio di Lione, ove doveva fare una visita per incarico della superiora, la portinaia le consegnò un piccolo involto. «È per voi, suora. Posso aprirlo?» «Sì, certamente». Lo aprì e con profonda emozione vi trovò una croce sulla quale erano stati incisi il suo nome ed una data. Era il crocifisso della sua professione. La superiora, non si sa per quale motivo, aveva cambiato improvvisamente la decisione, ammettendo ai primi voti la notizia che avrebbe ancora dovuto attendere 3 anni. Si comprenderà ora la verità delle parole del santo: la vostra croce è pronta. Ernestina Duran di Lione, giovane di 18 anni, si presentò al curato d'Ars per interrogarlo sulla sua vocazione. «Figlia mia, farete parte delle piccole suore dei poveri, ma dopo di essere entrata nella comunità sarete costretta ad uscirne». «Allora, padre mio, preferisco...» «No, no, dovete entrare. 3 giorni dopo che sarete uscita, vostra madre vi ricondurrà». Ernestina obbedì ciecamente al santo curato. Dopo molte insistenze, ottenne il consenso dei genitori e poté entrare presso le piccole suore dei poveri a Lione, per incominciare con le migliori disposizioni il suo postulantato. Ma dalla famiglia arrivarono tosto lettere di rimpianto e di minaccia, nelle quali si diceva che la giovane era ancora minorenne ed aveva estorto il consenso della madre. Se fosse stato necessario, si sarebbe fatto appello alla giustizia per ottenere che lasciasse il convento. Infatti, passato qualche giorno, suo fratello si presentava alla superiore con un agente di polizia, obbligando la postulante a ritornare sotto il tetto paterno. Il dolore le aveva tolto l'appetito e il sonno. Dopo 3 giorni era la madre che diceva alla figliola: «Non voglio essere la causa della tua morte, ti accompagnerò dalle tue consorelle». E rinnovando il suo consenso, benché non ancora pienamente rassegnata, questa madre, secondo la predizione del curato, condusse la figlia alle piccole suore dei poveri. La signora Sermet de Croz di Arbignè, del dipartimento dell'Aisne, aveva 3 figlie. Desiderava che una di esse si facesse religiosa, e la minore, di nome Giuseppina, modesta e pia, sembrava chiamata al chiostro, mentre non le sembrava di poter fare assegnamento per questa vocazione sulla maggiore, di nome Antelmina, che ai suoi occhi appariva alquanto mondana, amante dei ricevimenti e che avrebbe destinato al matrimonio. Nel 1855 questa madre ebbe occasione di passare per Ars e mise il santo curato al corrente dei suoi disegni. «Figlia mia», rispose il santo, «la vostra Giuseppina non sarà religiosa, ma sarà religiosa un'altra della vostra casa, e lo sarà prima di quanto non pensiate». La signora Sermet de Croz non vi prestò fede e nel ritorno comperò a Lione una bella veste per la figlia maggiore, ma quando giunse ad Arbignè e mostrò alla figlia il dono tentatore, sentì rispondersi: «Mamma, questa veste non mi servirà, voglio farmi religiosa». Infatti, poco tempo dopo, ella entrava a Bon Repos nel noviziato delle suore mariste di Bellay, e Giuseppina, che non aveva mai pensato seriamente al convento, si sposava a sole 17 anni il 16 febbraio 1857. Ma vi è un altro grazioso racconto che mostra la maniera di Don Vianney. Lo ascoltiamo dalla baronessa Lacomble, che ne fu la protagonista. «Ero vedova con 2 figli. Un giorno venni a sapere che il minore, di allora 18 anni, si era invaghito di una figliola più giovane di lui di 3 anni, e presto ricevetti una lettera nella quale questo figlio, con tenera affettuosità, chiedeva il mio consenso al suo matrimonio, affermandosi d'altronde pienamente deciso nella sua idea. Ci fu uno scambio di lettere, ma la opposizione non riusciva a nulla. Sola e senza alcuno che mi potesse consigliare, mi ricordai di Don Vianney, già conosciuto come uomo di straordinaria santità, e dopo ferventi preghiere intrapresi il pellegrinaggio ad Ars. Questo villaggio era molto lontano ed il viaggio sarebbe stato penoso, ma non mi fermai a queste considerazioni. Arrivai ad Ars dopo 3 giorni di diligenza e disgraziatamente non avrei potuto fermarmi che poche ore, mentre per parlare al servo di Dio erano necessari giorni di attesa. Quando entrai nella chiesa mi accorsi tosto che dalla porta al confessionale non vi era più un posto libero, e mi collocai in fondo alla chiesa dietro la pila dell'acqua santa, già rassegnata a partire senza aver potuto avvicinare il santo. In quei momenti non tolsi lo sguardo dalla cappella di San Giovanni Battista ove egli confessava e pregai con fervore. Quale non fu la mia meraviglia e la mia emozione quando vidi un prete dai capelli bianchi uscire dalla cappella e dirigersi verso di me. Quando mi fu vicino si fermò ed, inchinandosi verso di me, mormorò al mio orecchio: «Lasciateli sposare, saranno molto felici», e ritornò al suo confessionale. Nessuno sapeva del mio viaggio. Il curato non mi aveva mai vista e non poteva essere stato preavvisato da alcuno circa la mia visita e i miei dubbi. Dio medesimo gli aveva concesso una volta di più e per me, madre inquieta ed indecisa, il dono dell'intuizione che gli faceva leggere nelle anime per rischiararle e confortarle in mezzo ai loro dubbi e ai loro affanni. E quanti avvenimenti simili, felici o infelici, furono previsti dal curato d'Ars. Nel marzo del 1856, vedendo per la prima volta Don Babei, professore al collegio di Lons-le-Saunier, gli domandò cordialmente: «Voi venite per il giovane X che è ammalato?» e nominò senza esitazione un allievo ammalato di tifoidea per il quale il sacerdote faceva il pellegrinaggio. «Ebbene, scrivete da parte mia ai suoi parenti che non morrà di questa malattia». Pochi giorni dopo l'allievo era guarito. Sebastiano Germain, nato a Miserie e nipote di Maria Filiat, maestra della provvidenza d'Ars, durante la sua fanciullezza aveva ottenuto di servire la messa al santo curato. Sposatosi, aveva avuto 3 figli ed era desolato di non avere una figliuola. Circa la metà di luglio del 1859 andò a trovare Don Vianney e l'incontrò sulla piazza, con in mano varie corone del rosario. Senza dargli il tempo di dirgli quale era lo scopo della sua visita, il curato gli consegnò 4 corone, dicendo: «Prendine una per ciascuno dei tuoi figli». «Ma, signor curato, io non ho che 3 figli, 3 fanciulli». «Ebbene, l'ultima sarà per tua figlia». L'anno seguente la casa Germain era in festa per la nascita di una bambina, la medesima che, passata a matrimonio col signor Giallat, ci fece questo grazioso racconto. Terminando, diceva: «Mio padre mi ha consegnato l'umile rosario dai grani di legno e dalla catenella di ferro che ancora conservo come preziosa reliquia». Quando nel marzo 1866 il cardinale de Bonald espose all'arcivescovato di Lione il progetto preparato dietro sua istanza dall'architetto Bossan per la Basilica della Fourvière, nacque una viva polemica tra gli ammiratori di questo stile originale ed i partigiani dell'antica architettura romanica e gotica. Il cardinale, temendo che non si potessero raccogliere i fondi necessari per questa impresa, ritirò i suoi piani né più si parlò di quest'opera. Nell'estate del 1869, Don Bonardet, futuro vicario generale di Lione, facendo il viaggio da Ars a Villefranche, trovò nella vettura l'architetto Bossan e con lui parlò della chiesa della Fourvière, esprimendogli il suo profondo rincrescimento perché era stato abbandonato un progetto che egli riputava meraviglioso. L'architetto, con la calma più perfetta, gli rispose: «Quanto a me, su questa cosa sono tranquillo, perché Don Vianney, prima di morire, mi assicurò che la mia chiesa sarà un giorno costruita in rendimento di grazie». E appena 2 anni più tardi, Monsignor Ginouliac, nel dolore di pubbliche calamità, pronunciava il voto che diede origine alla Basilica della Fourvière, dimostrando vera la profezia di Don Vianney. La festa di San Giovanni Battista veniva celebrata ogni anno con solennità nella chiesa di Ars e Don Vianney, soddisfacendo ad un bisogno dell'anima, cantava la messa del suo patrono all'altare maggiore. Il mattino del 24 giugno 1859, mentre aveva inizio la sanguinosa battaglia di Solferino, rinunciando alla sua abitudine, celebrò invece all'altare della Santa Vergine. La meraviglia del popolo fu grande, ma cessò quando si sparse la notizia del combattimento. Una madre gli chiese: «Mio figlio è ancora vivo?» «Sì, ma molti sono morti», rispose. Nel 1855, mentre si preparava a partire per la guerra di Crimea, uno dei figli della famiglia di Garez, Giovanni, buon giovane, amato con predilezione da Don Vianney, si pregò il santo di recarsi al castello a benedire la spada. La famiglia intera lo aspettava nella sala. Quando giunse sulla soglia, vide il giovane ufficiale, prima che questi lo scorgesse, e mormorò con aria di infinita pietà: «Povero giovane, una pallottola, una pallottola». Marta di Garez dice che per il rumore che si faceva nella sala non tutti poterono intendere queste parole, che però giunsero all'orecchio di sua sorella, la signora di Montbriand, e di varie altre persone. Difatti, il povero ufficiale fu colpito da una pallottola il 18 giugno all'assalto della torre Malakoff e morì 3 giorni dopo. Il 10 giugno 1859, Si trovava ad Ars durante il passaggio del santo curato la signora Prat di Marsiglia. Quando il santo fu davanti a questa persona che non aveva mai visto, improvvisamente si fermò e le disse con un accento di particolare compassione: «Figlia mia, vi succederà una disgrazia improvvisa. Fate una novena a Santa Filomena». 6 mesi più tardi, il 10 dicembre, la signora Prat perdeva il marito che veniva repentinamente colpito da apoplessia fulminante alla Borsa di Marsiglia. Una giovane religiosa del terz'ordine francescano di Saint-Sorlin, Suor Maria Francesca, era venuta con la superiora a passare alcuni giorni al villaggio di Ars. Prima che partissero, il curato le incontrò e diede loro 3 monete da 1 franco, dicendo: «Prendete, ne avrete bisogno». «Ma signor curato, abbiamo abbastanza denaro per pagare la vettura». «Prendete ugualmente». Quale non fu la sorpresa delle religiose quando, arrivate a Villefranche e sul punto di saldare i conti, si accorsero di avere perduto il portamonete contenente esattamente i 3 franchi necessari per pagare il vetturino. Fortunatamente Don Vianney ci aveva pensato a tempo. In un altro viaggio, la medesima suora Maria Francesca giunse al villaggio d'Ars di buon mattino in compagnia di sua madre e della sua superiora. Don Vianney, che le vide quando passava alla sagrestia per prepararsi alla messa, disse piano alla superiora: «Partite subito». «Ma padre mio, la messa». «No, figlia mia, non aspettate. Una di voi sta per cadere ammalata. Se attendete non potrete partire tanto presto». Piena di spavento, la superiora obbligò le altre 2 al ritorno. Suor Maria Francesca narra l'epilogo del viaggio in questo modo: 2 leghe prima di arrivare a casa, fui sorpresa da una grande pena tanto da non poter continuare il viaggio. Così la mia superiore e mia madre furono costrette a sorreggermi e trascinarmi. Era per me il principio di una malattia grave che mi avrebbe obbligata a letto per 15 giorni. Verso le ore 11 di un mattino d'estate del 1857 assistevano al catechismo di Don Vianney 2 giovani, venute al villaggio di Ars più per curiosità che per devozione. Una di esse, la meno seria, insoddisfatta dello spettacolo, indicando questo prete semplice nel suo linguaggio e nel suo portamento, disse: «Quale caricatura! Non valeva la pena di venire da lontano». Il predicatore colse questa riflessione al volo e, fermandosi con un sorriso un po' scherzoso, completò l'osservazione con queste parole: «Non è vero, signorina, che non valeva la pena di venire così da lontano per vedere una caricatura?» E continuò il catechismo. È facile immaginare l'impressione della giovane. Rimase tuttavia in chiesa e, quando fu finita l'istruzione, andò con le lacrime agli occhi a cercare Don Vianney per presentargli le sue scuse. Il servo di Dio l'accolse insieme all'amica con l'abituale bontà e disse: «Per penitenza vi confesserete e domani farete la comunione». Poi prese a parte l'amica della colpevole e le confidò queste previsioni: «Nel ritorno sorvegliate la vostra compagna di viaggio perché le succederà una disgrazia. Ma siccome domani riceverà la comunione come viatico, la sua salvezza non sarà compromessa». Le 2 giovani fecero con fervore le loro devozioni e, felici di avere compiuto il pellegrinaggio, ripresero la via di ritorno con passo agile. Colei che aveva ricevuto l'incarico di sorvegliare la compagna non pensava più alle raccomandazioni del santo, quando udì un grido improvviso. La sua compagna era stata morsicata ad una gamba da una vipera. L'intossicazione fu istantanea e la giovane morì sulla strada senza che fosse possibile portarle alcun aiuto. Dopo questo avvenimento si pensò che il curato avrebbe dovuto non solamente avvertire di un tale male, ma anche prevenirlo. Ma forse il santo aveva avuto solo l'intuizione di un male inevitabile senza conoscerne la causa e le circostanze. In altre occasioni, guidato dalla luce di Dio, ha previsto le disgrazie ed ha aggiunto che a queste si sarebbe sfuggiti. Qui siamo in pieno mistero. La signora E., vedova di un comandante di cavalleria, ci lascia questo racconto. «Nel 1873 andai con mio marito ed una famiglia di amici a far visita a Don Rousset, parroco di un villaggio della Bresse, di cui non ricordo il nome. Questo buon prete ci fermò a colazione e condusse in seguito i suoi ospiti alla pesca. Essendo indisposta, preferì rimanere a casa con la domestica, una giovane di alta statura, che mi servì del tè e mi fece il seguente straordinario racconto. quando avevo 19 anni e mi trovavo all'orfanotrofio delle suore d'Oton, per guadagnarmi il vitto chiesi di andare a Lione a cercarmi un posto e la superiora fu d'accordo e mi affidò ad una signora che doveva andare a Lione e che sarebbe passata per Ars per consultare il curato. Entrammo in chiesa mentre Don Vianney faceva il suo catechismo sul segno di croce. Appena mi vide si interruppe ed indirizzandosi a me disse: «Là, quella grande, venga subito a trovarmi in sagrestia, ho qualcosa da dirle». Finito il catechismo andai alla sagrestia e senza che io dicessi una parola il curato cominciò: «Voi andate a Lione, figlia mia, ebbene, sappiate che vi attende un grave pericolo, ma quando lo vedrete vicino ricordatevi di me e pregate il Dio». Quando arrivai a Lione, cominciai le mie ricerche, ma non avendo trovato nulla per 3 giorni, mi recai presso un ufficio di collocamento ove vidi 2 uomini in attesa. Esposto il mio caso, uno di essi mi disse: «Voi cercate un posto? Benissimo, io ho appunto bisogno di una governante». E conchiuso l'accordo aggiunse: «Ma è necessario che vi veda anche mia moglie e quindi verrete a casa mia alle 3 del pomeriggio a questo indirizzo». Abitava a Mulatier e mi recai là all'ora indicata, ma come mi sembrava lunga la strada. Giunsi infine al punto ove la Saon affluisce nel Rodano. Vi erano là molti battelli e molti marinai. Quando dopo una svolta mi trovai in una località deserta, ove c'era un'unica casa, vidi sulla soglia l'uomo che mi aveva dato l'indirizzo e mi faceva segno di avanzare. Improvvisamente fui presa da una grande paura. Ricordandomi delle parole del curato d'Ars, mi raccomandai a Dio e, lanciato un grido, cominciai a correre più che potevo. Quell'uomo mi rincorse cercando di passarmi un laccio attorno al collo, ma non vi riuscì e dovette fermarsi quando ci trovammo in vicinanza dei battellieri. Seppi in seguito che poco era mancato non cadessi nelle mani del famoso Dumollard, che fu detto l'assassino delle governanti. Quando quest'uomo fu arrestato, io fui chiamata in corte d'assise tra i suoi accusatori. Ma convenite che senza il curato d'Ars